Siete su Radio Wombat e questa è 8 Hertz. Thank you. Ed eccoci qua a 8 Hz, il pezzo che abbiamo sentito è di Luzu e tra poco ve ne parlerò. Intanto vi dico che questa puntata si chiama Presenze diodroniche perché è dedicata quasi interamente al festival che si terrà qui al Cinema Teatro di Castello a Firenze. È il festival di Odroni, il sesto, si chiama proprio Presence. Per la prima volta a questo programma ci sarà un ospite e appunto il fondatore dell'etichetta Collettivo di Odrone, Naresh Rahn, che vi parlerà appunto del festival e anche un po' di come è nata di Odrone un po' velocemente, poi magari se ne riparlerà in futuro. Ascoltiamolo intanto. Buonasera a tutti, qui è Naresh Rahn, fondatore, come diceva giusto appunto il mio compare Nauto Date, dell'etichetta di Odrone. Innanzitutto ringrazio Nicola di avermi ospitato questa sera, ed è un bel déjà vu essere di nuovo in una radio insieme, insomma, a cianare. Ma cosa stai dicendo? A fare, sì, i consumatori occulti di musica pesante, musica potente. Sì, siamo arrivati alla sesta edizione del festival che abbiamo fatto quasi più di una volta all'anno per arrivare al sesto in 4 anni. Presence è una serata dedicata ai ricordi e agli spettri, nel senso, ogni festival di Diodrone ha una sorta di storia, è un concept che lega, diciamo, tutte le performance. Quello di quest'anno appunto voleva trarre un po' ispirazione dall'idea che i ricordi sono un po' come gli spettri che infestano le abitazioni, no? Come nelle storie di fantasmi, nelle storie horror che tanto ci piacciono. Però invece di infestare appunto luoghi, i ricordi infestano le persone e la mente delle persone. Quindi in qualche modo si voleva parlare un po' di questo, della scia che lasciano certi ricordi del passato nel mondo presente, insomma. E ospiti di questo festival sono di tutto rispetto, e avremo appunto Luzu, come ci accennava Nicola poco fa. Poi avremo Kulmor Videsen, che è un artista fiorentino. Avremo Mai da Roma e poi ospiti dal Canada, i Nadia, niente proprio di meno che. Ok, ricordiamo che è una domenica e inizia presto. Alle 9 spaccate di domenica 20 novembre iniziamo e finisce altrettanto presto, fino a per mezzanotte, quindi non ci sono scuse, insomma, per chi ha da fare la mattina dopo. Ok, bene, allora il pezzo che si era sentito appunto era dei Luzu, si chiamava Reprise, che è di un disco che è uscito per la Seahorse Records nel 2015 e si chiama Brighter. Parlando di Luzu, sono due fratelli siciliani, Giancarlo e Raffaele. Raffaele è anche batterista, che ha portato una componente un po' più tribale nelle composizioni di Giancarlo. Sono attivi dal 96, per cui da un sacco di tempo, e hanno fatto un sacco di collaborazioni musicali nel campo dell'arte contemporanea, nel teatro, nelle produzioni visive, e hanno fatto svariati live. Tra cui uno storico e rullante club, se non sbaglio. Sì, ci tengo a precisare che ce l'hanno molto con chi fa elettronica, con tutti i synth, perché dicono che è un po' un vizio, capito Bad Girl. E quindi il loro set in realtà è molto basato su computer e controller, ma poco altro, roba che insomma ti porti via con una valigetta e vai a suonare in tutto il mondo. Ma se giravoce Bad Girl utilizza basi registrate su CD, un CD portatile? Forse sì. Comunque Bad Girl tra l'altro verrà settimana prossima al programma, per cui se vi interessa sapere la sua, ecco, insomma, ci sarà. Metto un altro pezzo dei Luzu, che è sempre tratto da Brighter, che è appunto l'ultimo disco, che ci stiamo un po' a pubblicizzarlo, che è del 2015. E secondo me è un pezzo bellissimo, è un po' meno ritmato di quello che vi abbiamo fatto sentire, è il lato un po' più landscape e colonna sonora. Secondo me il pezzo è bellissimo, si chiama The Way of the Bosom, versione 2, V2. Thank you. era Luzu, The Way of the Bosun versione 2. Appunto lo troverete al Diodron Festival di domenica 20. Adesso andiamo a parlare del secondo artista che si esibirà in scaletta, che si chiama Kulmorf Widesen, e ve ne parla il compare qua. Kulmorf Widesen, a.k.a. Leonardo Barbadoro, è un diciamo, proviene dal giro post-rock e poi si è buttato nella sperimentazione più elettronica. Io lo conosco da qualche anno e l'ho un po', forse banalmente, sempre associato un po' a Aphex Twin per le sue influenze molto breakcore e le sue ritmiche molto, molto, molto pesanti, molto, come dire, cattive live. Ha diviso il palco con un sacco di bella gente, tra cui Venezian Snares, i Fuck Buttons e anche Apparat. Tra l'altro, un concerto con Apparat c'ero pure. E comunque ha sperimentato svariati tipi di soluzioni, insomma, per il suo stile, fondendo comunque le sue reminiscenze post-rock anche a, appunto alla sua passione per l'elettronica. Per il festival di Odrone si esibirà con un set particolare. No, no, va bene, no, si no. Introduceva dopo. Vabbè, uguale, ok. In che senso? No, adesso continua, dai. Vabbè, si esibirà con un set particolare, tuttora inedito, che ho avuto la fortuna di ascoltare in parte a una sua performance di molto tempo fa, ed è uno dei motivi per cui, tra l'altro, l'ho chiamato molto volentieri, perché presenterà appunto questo inedito set accompagnato da quattro musicisti appunto classici dal vivo, suoneranno gli archi, e in una performance appunto inedita e molto molto atmosferica. Che ci andiamo a sentire? Ci andiamo a sentire uno dei brani più breakcoreizzati suoi, che si chiama Seven Rockets e è uscito per la Eves, credo si chiami così, che è un'etichetta, mi sa, che con la quale lui collabora, fa mastering, fa il produttore artistico. Sì, e ci andiamo a ascoltare e poi analizziamo una cosa. Kullmore Widersen, secondo me già dalla seconda parte del brano c'erano dei riferimenti appunto a degli archi, anche se erano digitali, credo, perché poi con gli smanettamenti vari chissà cosa succede. Smanettamenti. Sì. Adesso ascoltiamo invece un brano sempre suo, dove appunto questi archi sono ancora più come si può dire, In in evidenza, insomma, evidenza. e sono suonati questi. Sono suonati, quindi sarà molto più simile a quello che succederà al Festival di Odrone, ma comunque sarà una sorpresa perché suonerà roba inedita. Tra l'altro bisogna ricordare che ha fatto anche nel 2015 una composizione che appunto è inedita, dal titolo Musica Automata o Automata per un'orchestra di 20 automi che sono controllati tramite computer. Quindi insomma parrebbe anche un bel Personaggio testone. interessante, sì. Adesso ci andiamo ad ascoltare FPM2 del 2012, e sentite un po' già le differenze, e insomma così avete una sorta di riferimento più ampio. Kullmore Widersen. Dopo questo pezzo passiamo al terzo ospite della serata del festival. Si chiama Mai Mai Mai. L'avevo già fatto sentire un pezzo nella prima puntata per la miriade di ascoltatori che ci ascoltavano, per cui insomma sicuramente già sapete chi è. 300.000, Comunque forse mezzo milione. è un personaggio che gira nell'ambito romano, anche se non è di Roma. Fa questa sorta di musica tra l'ambientale, il dronato, ritmiche mid-tempo, slow beat. Andiamo ad ascoltarci un pezzo che si chiama Eufrone, che è preso da Delta con disco del 2014. Lui ha fatto una trilogia mediterranea, che viene chiamata dai giornalisti o anche da lui, forse non lo so, trilogia mediterranea, che appunto nei tre album che ha fatto, Teta, Delta e l'ultimo che è nuovissimo, si chiama Fi. Che è uscito il mese È scorso. uscito il mese scorso e credo che lo proporrà dal vivo, non Probabile. lo so, comunque non si sa perché gli ho dato un ascolto così su non mi ricordo quale sito che ce l'aveva in anteprima. Tra l'altro la cosa bella di Mai Mai Mai è che ogni volta che lo vedo dal vivo i bassi suonano che è una meraviglia. Vabbè, ascoltiamoci questo pezzo che si chiama Eufrone. per ricordarvelo qualora vi fosse sfuggito il facile nome. abbiamo ascoltato Mai Mai Mai, un pezzo tratto da Delta, ed ora ve le facciamo ascoltare un altro, visto che secondo me vi piace. Non fa parte della trilogia, fa parte di un disco a sé che si chiama Petra, fa molto, fa molto occulto. Psichedelia occulta. Psichedelia occulta ci piace tantissimo. Di cui non possiamo parlarne perché, come si sa, della psichedelia occulta, meno se ne sa, meglio è. Esatto. Beh, mandiamo un saluto al buon vecchio Tony. Ciao Tony, spero che ci ascolti. Sicuro. Mettiamo Pelagos, beccatevela. Thank you. grandissimo mai mai mai. Ci fermiamo un attimo per dirvi che se avete delle domande, delle critiche, qualsiasi cosa, se vi piace questa musica, se vi strappate i capelli ad ascoltarla, se vomitate perché vi fa schifo, scrivete a posta wombat con la W wombat, quindi posta wombat at chiocciola insiberia.net. Ne saremmo molto lieti, anche perché almeno per ora non c'è una chat nel sito, per cui non possiamo dialogare con nessuno. Veramente ci farebbe piacerissimo saperlo. Poi c'è anche un Twitter che è twitter.com/radiowombatfi. C'è un Facebook, ma quello lo tralasciamo sempre. E poi vabbè, c'è wombat.noblogs.org, ma si presuppone che se siete qui già lo conoscete. Ok, arriviamo all'ultima proposta di gruppo che c'è nella serata del 20 novembre, che è una domenica, inizia presto e finisce presto, al cinema Teatro di Castello, quello del Circolino Arci, per intendersi, a Firenze, ovvero in Adia, cioè gli ospiti... Sì, gli headliner, diciamo, della serata. Gli headliner della serata. Praticamente è un duo che ha molto a che fare con il drone e il doom metal, anche se di metal secondo me hanno poco, hanno più... Forse un po' i chitarroni. Hanno più di shoegaze, se poi ascolterete un po' capirete. Ha un duo di Aidan Baker... lei si chiama Lea Bukarev, sono chitarra, batteria, voce, poi dal vivo la batteria è mandata elettronicamente, spesso. Sono un duo canadese ma residente a Berlino da tanti anni. Aidan Baker ha una discografia infinita, in okay. Adia hanno una discografia infinita e hanno fatto un sacco di split e collaborazioni con svariati gruppi, tra cui i nostri amici Ovo, gli Storm of Light, gli Atavist, i Traum, Zev, i Pyramids e gli Walkie Talkie. Un disco bellissimo, si chiama Sistema Solari. Esatto, salutiamo gli Walkie Talkie se ci sentono, tra l'altro li abbiamo visti all'ultima volta che hanno suonato al Krakatoa, hanno fatto una performance bellissima. Proprio stupenda, che sì. Distrugge ogni tipo di genere di concetto di live, secondo me. Esatto. Andiamo proprio a mettere questo pezzo lunghissimo da Sistema Solaris, che è del 2014, che è fatto da Nadia e Walkie Talkie, e si chiama Sun. A bomba. Sun. aggressivo croissant calore, horror vendette e my materials, neus black, coperture, circuits, sensor, elettroniche partes, camere stagne, e di più piccola parte del mio anamico corpo sta sentendo avvicinarsi ad fulcrum of everything arrives exactly the parte. I disti del mio black odor shosis, l'origine liquida et pirea, ora è non ve lo facciamo ascoltare tutto perché è lunghissimo e c'è questo drone infinito, ci dispiace, ma anche per ragioni di tempo non lo possiamo fare. E Nadia e Walkie Talkie insieme, un disco favoloso. Adesso Nares ci racconta qualcosa su Nadia anche. In Nadia le ho avuto la possibilità di contattarli direttamente scrivendo a Aidan Bacher, grazie ai due signorini degli Architectus Rex, che sono un bel gruppo che ha suonato tra l'altro l'edizione dell'anno scorso del Drone Festival. Che anche loro sono occulti. Sono molto occulti, però in realtà meno occulti rispetto agli Umanzuki, che sono i più occulti di tutti. E salutiamo. E li salutiamo, soprattutto Tommaso Di Tommaso. E niente, quindi insomma, avendo questa amicizia in comune, ho avuto la possibilità di scrivergli direttamente. Aidan Bacher è stato iper gentilissimo e disponibile, e preso bene all'idea appunto di suonare al festival, e ci ha fatto veramente piacere insomma la sua disponibilità. E quindi non vediamo l'ora appunto di conoscerli di persona e di goderceli al festival tra una decina di giorni. Quindi mettiamo un altro pezzo dei Nadia, che secondo me raccoglie un po' il loro sound, anche se il pezzo è una cover. Oh mio Dio! Le cover non sono facili da accettare, però secondo me vale la pena di sentire questo pezzo. Tratto da un disco di cover dei Nabat, che si chiama When I See the Sun Always Shine on TV. Praticamente c'è un gioco di parole tra un pezzo che andremo a mettere e un brano degli Aha. E comunque nel disco vengono coverizzati pezzi degli Slayer, dei Cure, dei My Bloody Valentine e dei Codeine. Il pezzo si chiama P e appunto la prima frase dice When I See the Sun, e quindi c'è il gioco del titolo dell'album, When I See the Sun Always Shine on TV, che è quello degli altri. E poi il pezzo prima si chiamava Sun, quello abbiamo mandato. Insomma, è un gran... Siamo un po' fissati col Sun, chissà perché. Appunto, questo secondo me è un po' il sound dei Nadia, anche se è una cover, anche perché negli altri dischi i pezzi sono veramente lunghi e quindi è un po' macello passarli per radio, anche se mi piacerebbe tanto fare un programma con tre pezzi lunghissimi. Uno solo. E ciao. Allora, Nadia, P, un pezzo dei Codeine, e il disco è del 2009. Ascoltatevelo. When I see the sun. Some people see. erano i Nadia che coverizzavano un pezzo dei Codeine, un gruppo slowcore che ha dato origine allo slowcore. Quindi vabbè, abbiamo detto e ascoltato tutto sul festival che si terrà, ricordiamolo, domenica 20 novembre al cinema di Castello qui a Firenze, in via Reginaldo Giuliani 374, così non avete scuse. Okay. Alle ore 9 spaccate comincerà il festival, quindi venite un po' prima. Visto che il capo di Dodone è qua, ci soffermiamo un attimo a parlare delle ultime uscite. Ma senti, guarda, la nuova stagione invernale del 2016 è stata battezzata da un bel gruppettino del nord molto giovane che risponde al nome di Demikov, che hanno pubblicato questo bellissimo disco di cui adesso scazzerò sicuramente il titolo, che è Experimental Transplantation of Vital Organs. E si ispira a questo scienziato sopra le righe russo che a inizio secolo sperimentò robe strane di trasposizione di organi in maniera particolarmente occulta, visto che siamo in tema. E il pezzo che ci andiamo ad ascoltare non è il singolone che è stato lanciato, ma è un pezzo un po' più dummeggiante, si intitola Dogs for the Government. E niente, ascoltiamoci questo bel gruppo un po' matto, un po' stoner, un po' doom strumentale, ribadisco, di ragazzi giovanissimi, spero non si offendano a sentirmi che lo ribadisco, ma mi sembra una componente piuttosto fondamentale per apprezzarli. Lo mettiamo. Dai. grandi Demikov, questa era Dogs for the Government, e sono stati veramente una bellissima scoperta per come gruppo, insomma. Tra l'altro un paio di aneddoti succosi che tengo appunto a dire. Il chitarrista usa una bellissima nude guitar costruita dal nostro caro amico Gabo dei Nudist, e come effettisti utilizzano i pedali della Sacred Fire, che è la linea di pedali che ha creato Enrico Tauraso, ex Dead Elephant, adesso Touring Horse. Insomma, sanno tutto. Sì, c'hanno della bella roba. Non hanno una Sun, però. No, scherzo. E il disco è uscito in coproduzione tra diverse etichette, tra cui figurano anche quella Tottenham Records, l'etichetta del nostro caro amico Marco Werner. E che altro dire? Vabbè, mandiamo un saluto appunto a Marco, già che ci siamo, un saluto a Demikov, e vorrei mandare anche un saluto, anche se non c'entra niente in questo momento, ma ci tenevo a farlo, a Mario Di Battista, che è il bassista di Ulan Bator, che ultimamente mi ha detto un sacco di cose belle e me l'ha fatta prendere molto bene, insomma, sul percorso che stiamo facendo, e quindi lo volevo ringraziare, anche se non so se ne ascolto in questo momento. E ora? And now ci andiamo a sentire un gruppo che suonerà, tra l'altro, domani sera a Struttura Birra. Tra l'altro vorrei mandare anche un saluto ai ragazzi di Struttura Birra, che dice si stanno ascoltando, a Mister Masetti, a Edoardo e a Compagnia Bella. Domani ci sarà questo bel concerto a zeppo di sonorità Stoner Doom, in compagnia degli Idol God, gruppo che pubblicherà appunto un album anche per Diodorone, tra l'altro, che uscirà tra un po', e del gruppo che andiamo a sentire adesso, che sono i Rosario. Cioè, per la serie, fiorentini, svegliatevi, ci ascoltano a Prato. E a Firenze siete titubanti, cioè, non lo so, boh. Ci ascoltano anche, vergogna. Anche a Pechino, probabilmente. E, insomma, il Rosario, un quintetto bello stoner, insomma, con un po' influenza di sonorità alla Mastodon, bello potente, che hanno pubblicato da poco questo disco che si chiama And the Storm Surges. Uscito anche questo per una manciata di etichette nostrane, tutte molto interessanti, e uscito in vinile doppio con un artwork molto curato. C'è una cosa mastodontica. Una cosa mastodontica. Stavo per dire una frase bruttissima, non la dirò. E comunque i Rosario saranno appunto domani alla Struttura Birra a Prato, quindi fiorentini, muovetevi, ingresso gratuito, la birra è buona, venite a ascoltarvi un po' di sonorità. Ora, poi dopo mi dice cos'era la cosa brutta che te lo dico in privato, ma alzerò il volume tutto io. Va bene, ascoltiamoci questo pezzo, che è il pezzo che chiude il disco ed è penso il più evocativo dell'album, che si intitola And Then Jupiter. Eccoci a 8 Hertz in compagnia del santone di Diodrone, che santone, ci sta... ce n'è solo uno ed è un santoni. Che ci sta proponendo le ultime uscite del 2016 della sua etichetta. Prima ci ha parlato del festival che si terrà il 20, domenica 20 novembre. E adesso ci fa sentire appunto un altro release della sua etichetta, non so se è legata a qualcun'altra, boh, ce lo spiegherà lui. Uscirà tra pochissimo, cioè lunedì prossimo, lunedì 12-14 novembre, insomma lunedì, il secondo album dei Kirlian, un gruppo che ho scoperto di recente, molto molto interessante, che propongono una sorta di post qualcosa strumentale. Il disco ha un approccio molto anche dall'estetica molto scientifico, come se fosse un po' un esperimento, e mi ha intrigato molto insomma come progetto. Chi te l'ha fatto conoscere? Me l'ha fatto conoscere ma un tipo insomma poco raccomandabile che vive nel Trevigiano e che risponde al nome di Nicolas Mangin. Madonna, quanto mi sta antipatico, cioè. Come stavamo dicendo poco fa, è difficile pensare a Mangin e non dire una bestemmia. Distolo Diodrone. Diodrone. Vabbè, salutiamo Nicola Mangin e Nuncia e anche Sandro. E ascoltiamoci questo secondo estratto. Uscito. Niente. Ascoltiamoci Qigong, che è il secondo estratto, il secondo singolo estratto dal R2, che è appunto il nuovo album dei Kirlian. Oh, vai. Vai. E siamo giunti alla fine di questo episodio di 8 Hertz in compagnia di Renale Scenandi e Diodrone. Vorrei salutarvi dicendo, cioè proponendo l'ultimo prezzo, anzi lo proporrà Nares. C'è un incartamento, ci sta sempre, anche più di uno. Sì. Che conoscendolo da tanto... ha prodotto un gruppo che non ha, cioè Diodrone ha iniziato un po' come quasi come scommessa, sì. Ed è finito, sta continuando e al giorno d'oggi sta producendo gli Ovo. Passo la parola sì. A lui. Beh, sicuramente la produzione del nuovo disco degli Ovo, che uscirà il prossimo 9 dicembre, si intitolerà Creatura, è sicuramente per la famiglia Diodronica l'evento dell'anno, senza nulla togliere tutte le produzioni precedenti, che sono tutte cose di cui andiamo estremamente fieri. Ma naturalmente produrre un nuovo lavoro di un gruppo che abbiamo seguito per tanti anni, di cui siamo stretti fans e per incroci stellari siamo diventati anche amici, è veramente una magia. Per citare appunto una frase di Mangin molto azzeccata, è bello quando succedono cose che anche soltanto un anno fa avremmo ritenuto totalmente impossibili. E questo disco, tra l'altro, una cosa che mi rende particolarmente fiero, oltre al fatto appunto di essere coinvolto in prima persona, è che ha visto la stretta e diretta collaborazione di persone del nostro giro, di stretti certo. Amici nostri, che hanno collaborato attivamente alla realizzazione appunto del disco alla propria maniera. Per esempio l'artwork è stato curato sotto suggerimenti di Stefania, da Coito Negato, a.k.a. Stefano Matteoli, che oltre a essere il chitarrista di Loia è anche un illustratore da paura, che ha dato immagine a un sacco di incubi della famiglia di Diodrone, ha disegnato copertine per un sacco di gruppi, che adesso sta lavorando... Ha iniziato con la Quenta. Esatto, con la Quenta. Anche con Gargamella? No. No? Ha fatto un po' il lavoro di... Okay. Di layout, di immaginazione. E insomma è stato bello appunto poterlo coinvolgere in questa cosa. Tra l'altro le foto, parte delle foto ufficiali che sono state appunto uscite per gli OVO sono state realizzate sia da Francesca Morello e anche da Katia Egiziano, a.k.a. Edorian, che è un'altra nostra carissima amica. E in tutto questo stiamo collaborando nella produzione del disco e nell'uscita dell'album con Dischi Bervisti, appunto, che ci sta curando l'ufficio stampa. Quindi è bellissimo lavorare appunto con quella che a tutt'oggi è diventata parte della nostra, diciamo, famiglia, delle nostre persone sono diventate parte della nostra vita e che mi rende veramente fiero, insomma, di questo percorso, lo dico senza assolutamente falsa modestia. E colgo l'occasione per salutare Stefania e Bruno, Francesca e tutte le altre persone che sono coinvolte in questa cosa. Noi vi salutiamo appunto col pezzo Satanam, che è uscito anche in video. Videoclip, ed è il primo estratto appunto da Creatura. La Creatura. E ricordiamo che gli OVO, tra l'altro, suoneranno il giorno dopo il release del disco, suoneranno al Next Emerson di Firenze. E Quindi accorrete numerosi, non mancate, in compagnia dei The Mild e degli Adult God. E basta, stop, qui siamo su 8 Hertz, siamo su Radio Wombat, che era Radio Cittadina Libera, quindi cittadini fiorentini svegliatevi, e grazie. Se non vi svegliate almeno rimanete sintonizzati sulle 8 Hertz del vostro corpo, che vi fanno andare un pochino di fuori. Un ringraziamento a Noto Date, che insomma è uno stretto collaboratore da tanto tempo. Thank you, prego. E grazie a Radio Wombat per aver... Basta ringraziamenti. Basta, vi ho tolto il cazzo, sentiamoci questo cazzo di pezzo. Ciao. I'm gonna be